Dopo ciò, Davide sconfisse i Filistei, li sottomise e prese loro Gat con le sue dipendenze. Quindi sconfisse Moab, ed i Moabiti divennero vassalli di Davide e suoi tributari. Davide inoltre sconfisse Hadad-Ezer, re di Zoba, verso Kamat, mentre si recava a stabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1000 carri, 7000 cavalieri e 20000 fanti. Davide tagliò i garretti a tutti i cavalli, risparmiandone un centinaio. Gli aramei di Damasco vennero in aiuto di Hadad-Ezer, re di Zoba, ma Davide uccise 22000 di questi aramei. Davide stabilì governatori nell'Aram di Damasco e gli aramei divennero vassalli e tributari di Davide. Il Signore concesse la vittoria a Davide in ogni sua impresa. Egli prese anche gli scudi d'oro portati dagli ufficiali di Hadad-Ezer e li trasportò a Gerusalemme. Da Tibcat e da Cun, città di Hadad-Ezer, Davide asportò una grande quantità di bronzo, con cui Salomone costruì il mare di bronzo, le colonne e le suppellettili di bronzo. Quando Tou, re di Kamat, ebbe udito che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Hadad-Ezer, re di Zoba, inviò il figlio suo Adoram al re Davide per salutarlo e per felicitarlo di aver combattuto e vinto Hadad-Ezer. Infatti, Tou era sempre in guerra con Hadad-Ezer. Adoram portava con sé oggetti d'oro, d'argento e di bronzo. Anche questi oggetti il re Davide consacrò al Signore insieme con l'argento e l'oro che aveva preso da tutti i popoli, cioè da Edom, da Moab, dagli Ammoniti, dai Filistei e dagli Amaleciti. Abisai, figlio di Zeruia, sconfisse nella valle del Sale 18000 Edomiti. Davide pose guarnigioni in Edom, tutti gli Edomiti divennero suoi vassalli. Il Signore rendeva Davide vittorioso in ogni sua impresa. Davide regnò su tutto Israele e rese giustizia con le sue sentenze a tutto il popolo. Joab, figlio di Zeruia, era comandante dell'esercito. Josafat, figlio di Achilud, era archivista. Zadok, figlio di Achitub, e Abimelech, figlio di Ebiatar, erano sacerdoti, mentre Safsa era scriba. Benaia, figlio di Ioiada, comandava i Cretei ed i Peletei. I figli di Davide, poi, erano i primi a fianco del re.